ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo tredicesimo. La pasticceria in fallimento. Cesarino e Luisella Fragalà avevano chiuso bottega quella sera piovosa di estate, mezz'ora prima del solito, alle 9. Tanto, con quel cattivo tempo, con quell'impetuoso vento caldo sciroccale che faceva roteare la calda pioggia, poca gente era nelle vie e nessuno veniva a comprare 2 chili di caffè, una bottiglia di cognac o una bomboniera di raso a quell'ora con quella tempesta nell'aria. Non entrava ogni tanto che qualche compratore di 20 centesimi di pasticche per la tosse. Mettendo uno sbuffo di vento nella calda bottega, sporcando il marmo del pavimento con le scarpe umide. Quella serata era stata cattiva, come tutta l'estate del resto. E Luisella, scorata, non aveva neppure il coraggio di andare a villeggiare a Santo Iorio, uno dei paeselli intorno Napoli favoriti dalla borghesia. Troppe nubi ella vedeva aggravarsi sulla sua pace familiare, simili al cielo napoletano, perché ella avesse il coraggio di allontanarsi da Napoli e dalla bottega. Oramai la sua mite gloria di negoziantessa ricca, che se ne stava in casa sua coi figli senza curarsi del commercio, era tramontata. Ed ella lasciava l'appartamento del Palazzo Rossi, che era la sua gioia di borghese ambiziosa, per rientrarvi solo all'ora di pranzo, per uscirne subito di nuovo e tornarvi solamente la sera per dormire. Altro che stare coi figli. La piccola Agnesina, che adesso aveva 3 anni ed era una creaturina florida, pacifica e saggia, veniva spesso a trovare la mamma in bottega, senza chiedere né dolci né confetti, nascosta dietro il bancone, occupata a tagliar silenziosamente quelle striscioline sottili di carta che si mettono come se fosse bambagia fra un dolce e l'altro nelle scatole che si mandano in provincia. Ella si rendeva utile a Agnesina, senza fare rumore, senza dare fastidio, purché non la mandassero via, purché non la lasciassero a casa con la cuoca e la cameriera che si bisticciavano sempre. La madre, quando l'aveva svezzata, avrebbe voluto darsi il lusso di una bambinaia, magari toscana, perché la creaturina gentile non imparasse il dialetto napoletano. Ma al momento di farlo, pensando, sentendo la sottile amarezza di certi presentimenti, aveva preferito rinunziarvi. La fanciulletta sarebbe cresciuta sua alla meglio. E per non starne tante ore separata, per non vederne la malinconia, Luisella permetteva che la bambina le fosse portata in bottega ogni tanto. Quando Agnesina vedeva andar via la madre al mattino, le correva dietro senza piangere, senza gridare e le si attaccava alle gambe senza dir nulla, levando il viso verso Luisella e interrogandola con gli occhi. La mamma intenerita capiva e per consolarla, vedendola così quieta, così obbediente, le faceva la promessa, le diceva che sarebbe venuto anche lei più tardi alla bottega. Quella scioglieva le piccole braccia, restando persuasa, come se si rassegnasse ad aspettare. E quando schiudeva la porta a cristalli, entrando col suo semplice vestitino di percalla, con il gran cappello di paglia sul capo, ella sorrideva alla madre, come se già fosse grande, e posatamente andava a riporre il suo cappello nella retrobottega, senza avere neppure un accesso di golosità, ben felice di stare accanto alla madre dietro l'alto bancone. Soltanto la mamma, passato il momento in cui arrivava la sua creaturina e che le metteva un sorriso nell'anima, si rattristava. Ah, non questo aveva sognato, di ritornare a bottega ogni giorno per 12 ore, a vendere caramelle e cioccolata, a riempire sacchetti di carta e scatole di legno, sempre pronta al servizio del pubblico, mentre la piccolina tagliava le sue cartine taciturnamente, con la precisione di una fanciulla grande. Non questo aveva sognato per la sua bimba, che fosse anch'ella una bottegaia. Luisella certo non disprezzava la vita del commerciante, ma avrebbe voluto essere donna di casa e non di bottega, massaia e non venditrice di confetti, madre di famiglia e non commessa di magazzino. Non questo aveva sognato. Avrebbe voluto cucir lei la biancheria, i vestiti della sua bimba, insegnarle qualche cosa, la poesiola a Pasqua e a Natale, il modo di far la calza, il cucito, il ricamo, tutto quello che è l'umile ma glorioso retaggio delle spose felici. Ma invece quella vita col pubblico, tenendo un sorriso stereotipato sulle labbra, non potendo scambiare una parola in segreto col marito e con la figlia, non potendo raccogliersi nei suoi pensieri un sol momento. Ella aveva assunto quell'obbligo di tenere la vendita in bottega sentendo l'imbarazzo finanziario in cui si trovava il marito. Le era parso che in bottega i commessi lo rubassero, che avessero cattivi modi con gli avventori, che vi fosse insomma bisogno di una donna. Per questo a poco aveva fatto il sacrificio di tutte le sue giornate. Adesso nessuna molla dell'ingranaggio commerciale le sfuggiva. E mentre era gelosa calcolatrice anche del guadagno di 2 soldi, teneva la sua casa sopra un piede di crescente economia. Eppure questo non bastava. Certamente perché le preoccupazioni di suo marito ricominciavano sempre più spesso. Doveva dipendere dalla trattazione degli affari grandi. La compra dello zucchero, del fior di farina, del caffè, dei liquori, in cui ella non poteva entrare e da cui Cesarino l'aveva tenuta sempre lontana calcolatamente. Pure i prezzi della merce li conosceva e le faceva sempre più meraviglia il disagio in cui si trovavano. Quando Cesarino, non potendo nasconderle i suoi turbamenti, finiva per confessarle che non poteva pagare una cambiale, che gli mancava la paga settimanale da dare agli operai della sua pasticceria, ella levava le sopracciglia in una sorpresa dolorosa, mormorando «Non capisco, non capisco». Cesarino cercava di ingarbugliarla, dicendole una quantità di fandonie sui dazi, sulle tariffe decoloniali, parlandole vagamente di certe perdite, in certe speculazioni non sue, dicendo che tutto il commercio andava male, tanto che ella, fattasi pensosa, finiva per dire «Allora è meglio chiuder bottega». «No, per carità», gridava lui. Ahi, che ella aveva capito finalmente la sua disgrazia. 3 o 4 volte, senza volerlo fare apposta, aveva scoperto che Cesarino non aveva più l'antica lealtà e che le diceva delle bugie. E questo le aveva dato un sussulto di paura, temendone mali peggiori. Quando facevano i conti insieme, egli diceva di aver pagato quella tal fattura. E non era vero, o l'aveva pagata in parte. Egli diventava mal pagatore. I 2 padroni di casa, dell'appartamento e della bottega, si erano lagnati più volte. Avevano anch'essi i loro pesi, non potevano aspettare tanto tempo il loro denaro. Ella aveva scoperto questo con una viva, segreta angoscia e quando interrogava severamente suo marito, costui impallidiva, arrossiva, balbettava, rivelando la sua nascosta colpa in tutta la sua attitudine. Per un momento Luisella aveva creduto di essere ingannata per un'altra donna. E le fiamme della gelosia le avevano arso il sangue. Ma Cesarino era sempre così tenero, così innamorato, così realmente, vividamente appassionato per sua moglie, che ella si era rassicurata. No, non era questo. Aveva stentato dapprima a comprendere quale sottile elemento dissolvente disperdesse i quattrini della sua casa. Scoprendo sotto le crescenti preoccupazioni, le bugie dolorose, i debiti che aumentavano, ingrossavano sempre fatalmente. Non arrivava a capire per quale ferita piccina, a una, stillassero via le gocce del sangue di casa Fragalà. Invano prosperava la bottega, invano ella faceva prodigi di economie. Il denaro spariva, spariva, sentendo ella il vuoto sotto la solidità apparente della loro casa commerciale, sentendo il languore irrimediabile di un corpo a cui il sangue va mancando. Ma non aveva veduta la ragione. Una donna, no, intanto. E chi? E che cosa allora? Solo a furia di indagare minutamente e amorosamente tutta la vita quotidiana di suo marito, ella aveva finito per capire. Anzitutto Cesare Fragalà era caduto nelle abitudini di tutti i cabalisti arrabbiati e invece di lacerare i polizzini del lotto che giocava ogni settimana, si lasciava andare a conservarli, a paragonarli fra loro, a farvi gli studi sopra. E un giorno, nella tasca di una giacchetta, Luisella ne aveva trovato un fascio, tutto quello di una settimana, 400 o 500 franchi buttati così, dati al vorace governo, dati a un essere impersonale e odioso per tentare una fortuna inafferrabile. Forse, malgrado lo sgomento che la colse in quel minuto, fra l'abbagliamento che l'accecava, forse ella pensò che quella era l'aberrazione di una settimana sola. Ma troppo ingenuo era Cesarino nel dissimulare. E adesso gli occhi esperti di Luisella vedevano che il venerdì era per lui una giornata di agitazione suprema. Vedevano la nervosità delle prime ore del sabato e l'accasciamento delle ore serotine, e già il cuore di Luisella si divideva fra due acuti dolori che si combattevano: quello di veder fuggire per sempre la loro prosperità e quello di veder Cesarino in preda a una febbre morale inguaribile. Avrebbe parlato, avrebbe detto tutto. Già la vita le si era aggravata addosso con tutte le sue responsabilità di sposa e di madre. Era passato per sempre il lieto tempo dell'idillio. Era venuta l'ora lunga e dolorosa in cui vi era bisogno di tutto il suo coraggio per vincere l'animo di Cesare. Era proprio una battaglia quella che voleva dare quella sera nella bottega chiusa mentre fuori scrosciava tristemente la pioggia estiva. Ed era il venerdì. Eppure, per eccezione, Cesarino Fragalà in quella serata non era sparito dalla bottega come soleva fare ogni settimana, appena imbruniva l'aria, per non rientrare a casa che alle 3 di notte, quando l'ultimo botteghino di Lotto era chiuso. Andava, veniva nervosamente, e due volte che il solito monelletto strillone di giornali era apparso per chiamarlo a nome di Don Pasqualino, egli aveva risposto che quella persona aspettasse, perché egli era occupato. Pallida, trepidante, sentendosi venuta a un momento grave, la moglie seguiva con lo sguardo obliquo gli andirivieni del marito. Fuori la pioggia batteva tristemente sui cristalli delle vetrine e il gas aveva aspetto di melanconica fiamma rossiccia. «Chiudiamo?» disse il marito impaziente. «Chiudiamo», disse ella con un lieve sospiro. «Tanto non verrà nessuno». E fu lui che parlò per il primo. «Ascolta, Luisella», disse a voce bassa. «Sai che cattiva stagione abbiamo avuta?» «Sì», mormorò lei. «Un vero disastro, ti assicuro, cara mia, che farebbe passare la voglia di fare più il bottegaio. Tu lavori, tu fai economia, io lavoro e si va di male in peggio». «Questo lo so», mormorò lei di nuovo, quasi infastidita da quelle querimonie. «Non puoi misurare, non puoi sapere. Bisognerebbe che tu trattassi direttamente con le case per vedere che rovina». «Vieni al fatto», disse ella con una certa asprezza. «Sei in collera?» chiese Cesare umilmente. «No», ella rispose con un'intonazione strana. «Perché avevo bisogno di un favore da te, di un così grande favore, che io mi vergogno finanche di chiedertelo». «Parla», disse ella, sormontando il senso di pena che le dava l'agitazione di suo marito. «Ho da fare un pagamento. Domani, nella mattinata». «Domani nella mattinata?» «Sì. È una cambiale che scade. Me ne ero scordato. Una forte cambiale». «E te ne eri scordato?» «Sai, sono un po' stordito da qualche tempo a questa parte. Infine, debbo pagare e non sono pronto. Ho chiesto invano un rinnovo, una diminuzione. Tutti vogliono il proprio denaro adesso. Non posso pagare, non vi è denaro sulla piazza». «E che vorresti?» disse ella guardandolo freddamente. «Tu potresti aiutarmi, levarmi da questo imbarazzo momentaneo. Io ti restituirei subito il denaro». «Io non ho denaro». «Beh, hai qualche oggetto prezioso, quegli orecchini di brillanti che ti donai, sono di valore, se ne può avere una bella somma». «Vorresti venderli?» disse ella chiudendo gli occhi come se avesse avuto innanzi una visione orribile. «Impegnarli, impegnarli, nient'altro, per pochi giorni, si riprendono subito». «Impegnare gli orecchini di brillanti?» «E la stella che ti ha donata Don Gennaro Parascandolo», disse lui frettolosamente e ansiosamente. Ella tacque. Aveva abbassato il capo e guardava la sua bimba che dormiva placidissimamente. Poi, sottovoce, ma con un fremito indomabile, disse al marito: «Tu vuoi impegnare i miei gioielli per giocare all'otto?» «Non è vero», gridò lui. «Non dire bugie. Puoi dirlo innanzi a me, innanzi a tua figlia, che non servono per il lotto?» «Non parlarmi così, Luisella», balbettò lui con le lacrime agli occhi. Servono per il lotto. Abbi il coraggio del tuo vizio. Non aggravarti la coscienza di menzogne, replicò la moglie con la ferocia della disperazione. Non è un vizio, Luisa. Era a fin di bene che ho giocato. A fin di bene per te, per Agnesina. Un padre di famiglia non gioca. Era per aprire il magazzino a San Ferdinando. Mi ci volevano 70.000 lire, Luisa. E non le avevo. Sai che abbiamo tutto il denaro in giro. Non gioca un padre di famiglia. Per la felicità di noi tutti, Luisa, te lo giuro, credimi. Per quanto voglio bene ad Agnesina, tu non le vuoi bene. Se le volessi bene, non giocheresti. Luisella, non mortificarmi. Non avvilirmi, sii buona. Sai quanto ti ho amata, quanto ti amo. Non è vero. Se mi amassi, non giocheresti, gridò lei esasperata. Hai ragione, Luisella. Hai ragione di maltrattarmi, di calpestarmi col tuo disprezzo. Hai ragione tu. Sono un cattivo marito, un pessimo padre. Ho rovinato la mia famiglia, hai ragione, ripeteva Cesarino convulsamente. Io ero un giovanotto allegro e laborioso, tutti mi volevano bene. I miei affari andavano magnificamente, tu eri la mia gioia e Agnesina era la mia consolazione. Qual fascino mi ha vinto, che maledetta idea mi è venuta di voler guadagnare 60.000 lire al lotto per mettere bottega a San Ferdinando. Oh, una dannata idea che mi ha messo nel sangue le fiamme dell'inferno. Ho voluto arricchirvi col gioco, capisci? Quando i danari si guadagnano solo col lavoro. Ho voluto arricchirvi giocando, quando mio nonno e mio padre mi hanno insegnato, con l'esempio, che solo contentandosi del poco, solo mettendo un soldo sopra un soldo, si giunge alla ricchezza. Che pazzia mi ha preso, che malattia mi ha reso così infelice. Che passione, che orribile passione! Pallida, con le labbra stirate da un moto nervoso che la faceva per reprimere i singulti, addossata alla spalliera del suo seggiolone, la povera donna udiva quell'angosciosa confessione, oppressa da un'angoscia senza nome. «Quanto ho giocato», riprese Cesarino, che oramai parea che parlasse con se stesso, senza vedere più sua moglie, senza udire più il placido respiro della sua figliuola addormentata. «Non lo so, non mi rammento più. È una gran liquefazione di denaro, come in un crogiuolo donde fuggisse tutto il metallo. Sulle prime giocavo moderatamente, cercando di mettervi della temperanza, dell'abilità, come se il gioco dell'otto non fosse l'ironia più beffarda che fa la fortuna all'uomo. Allora segnavo i denari che giocavo, sopra un taccuino dove segno le mie spese ordinarie, ma dopo, è stato tale un aumento di febbre che io non mi rammento più, Luisella. Non mi rammento quante migliaia di lire ho gittate via così pazzamente in un brutto sogno, in un delirio che ogni venerdì ripeteva il suo accesso furioso. Ah, Luisella, tu non sai, ma noi siamo rovinati. Lo so, ella disse pian piano, guardando il roseo volto della piccolina, dove il sonno manteneva la bella serenità infantile. Niente avevano detto finché giunsero in casa, su dove la serva li aspettava con la porta aperta e stese le braccia a prendere Agnesina per portarla in camera sua, per spogliarla ed addormentarla. Ma la creaturina, quasi avesse intesa la gravità di quell'ora, volle ancora farsi abbracciare dal padre e dalla madre, dicendo loro con quel suo dolce linguaggio infantile: «Mamma, beneditemi! Papà, beneditemi!» Alfine furono di nuovo soli, nella loro stanza, dove la lampadetta di argento ardeva innanzi alla madre di Gesù, la pia, la dolorosa madre. Cesare era accasciato, ma Luisella schiuse subito la porta a cristallo del suo grande armadio di palissandro, dove chiudeva i suoi oggetti più preziosi, stette un po' a cercare in quella penombra e ne cavò fuori due o tre astucci di pelle nera. «Ecco», disse a suo marito, offrendogli i suoi gioielli. «Oh, Luisa! Luisa!» gridò lui straziato. «Li do volentieri, per l'onor nostro. Non oserei tenere queste pietre, queste gioie inutili, quando siamo in pericolo di mancare all'onestà. Prendi, ma per tutto quello che è stato di dolce il nostro passato, ma per tutto quello che può essere di terribile il nostro avvenire, per l'amore che mi hai portato, per quello che ti porto, per quella creaturina nostra, sulla cui testa adorata hai pianto questa sera, Cesare, te ne prego con tutta l'anima, te ne prego come si prega Cristo all'altare, concedimi una promessa». Luisa, Luisa, tu vuoi farmi morire? Gridò lui mettendosi le mani nei capelli. Prometti di lasciare in mia mano tutti gli affari del nostro commercio, debiti e crediti, compra e vendita? Prometto. Prometti di dirmi tutto ciò che devi dare, a ciò che io possa pensare al rimedio? Prometto. Prometti di dare a me tutto il denaro che hai, che puoi avere, di non cercarne altro che non sappia io? Tutto, tutto, Luisa. Prometti di credere solo a me, di udire solo i miei consigli, di ascoltare solo la mia voce? Prometto. Prometti che nessuno varrà più di me. Prometti che mi ubbidirai come a tua madre quando eri fanciullo. Come a mia madre obbedirò. Giura tutto questo. Lo giuro innanzi alla Madonna che ci ascolta. Preghiamo adesso. Ambedue si inginocchiarono innanzi alla sacra immagine. Ambedue dissero insieme sottovoce il Pater Noster e più forte alla fine, levando gli occhi, ella disse: «Non ci indurre in tentazione». E lui ripetette umilissimamente, sconsolatamente: «Non ci indurre in tentazione». Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.